RadioTube Social Network. Eccoci ancora insieme, 17.5 minuti per la seconda ora di RadioTube, sempre con me Marta Cagnola, @ Marta Cagnola per Twitter e Instagram, 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp. Lo so che ogni tanto leggo dei WhatsApp cattivi e qualcuno mi scrive che vuoi farci, gli hater sono ovunque, internet, tv, anche radio. Sì, però io un po' di cultura della responsabilità dei messaggi che abbiamo tra le dita vorrei che si diffondesse, cioè c'è un po' di consapevolezza. Quindi lo so, ne parlo sempre, però abbiamo degli strumenti molto potenti in mano per scrivere quello che pensiamo. Ma se non insultiamo una persona quando la vediamo per strada, non vedo perché dovremmo insultarla quando prendiamo il telefonino e scriviamo un messaggio. Sarò strana io. Sarà che noi in RadioTube Social Network soprattutto abbiamo parlato per tanto tempo delle parole di odio, degli hater. Insomma, mi viene spontaneo. Allora, parliamo dell'attualità della rete e dalla rete. Questa settimana, come sempre, da quando è iniziata la nostra quarantena, quasi tutta la nostra attualità passa da lì, passa innanzitutto da lì, poi ovviamente passa per i mezzi di informazione tradizionali, tra i quali la radio, ci mancherebbe altro. Anzi, questa settimana c'è stato un bellissimo studio commissionato dal tavolo editori radio a GFK, che ha evidenziato come l'ascolto radiofonico sia un pochino calato come numeri di quantità di persone, perché ci sono meno persone in macchina, quindi meno autoradio, ma questo calo è compensato dal fatto che la gente ascolta molto di più, perché a casa si ascolta molto di più, si ascolta con altri mezzi, non con l'autoradio, ma con le radio tradizionali, con la radio DAB Plus, dalla televisione. Anzi, chissà da dove state ascoltando in questo momento. Sono piuttosto curiosa. Vabbè, insomma, se volete soddisfare la mia curiosità, scriveteci pure al 349-238-6666. Allora, a proposito di attualità della rete e dalla rete, come ogni settimana abbiamo un co-conduttore d'eccezione. Questa settimana non è che volo, vado proprio direttamente nello spazio, prendo una navicella spaziale e vado in orbita, perché è il nostro esperto di spazio, di cose da nerd, di videogiochi, di fumetti, di queste cose che ci piacciono tantissimo. Bentornato Emilio Cozzi, ciao Emilio. Ciao Marta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che bello essere con te ancora. Oh, ma anch'io sono contenta. Certo, anche qui ormai dobbiamo accontentarci di stare a distanza, però con le tecnologie siamo a distanza, ma almeno riusciamo a comunicare per bene. Come stai vivendo questa quarantena, Emilio? A parte il tanto lavoro, perché scrivi tantissimo, anzi andate sul suo account di Twitter, @addiograziaper, così vedete tutto quello che scrive per Wired, per un sacco di testate, anche per il Sole 24 Ore. Come stai passando il tempo in questa quarantena? Appunto, grazie al cielo sono tra i privilegiati che possono andare avanti col proprio lavoro e ho la fortuna di fare un lavoro che amo, come dicevi tu. Io scrivo di spazio, di videogiochi, delle cose da nerd, e poi ne sto approfittando anche per studiare un po' e per fare una cosa che facevo poco e che secondo me è fondamentale, anche un po', come dire, godersi il tempo che per forza di cose abbiamo libero. Prima sì, le nostre vite molto frenetiche non ce lo permettevano, forse adesso è il caso anche di tornare a fare pace. Lo ripeto, mi sento un privilegiato nel dire una cosa del genere, non voglio assolutamente destare scandalo, ci mancherebbe altro, però insomma, vedere un film, leggere un libro, leggere ovviamente i giornali è una cosa che di questi tempi posso fare di più e ne approfitto. Sì, la cosa che cercavo insomma di comunicare in questi sabati, insomma cerco anche di farlo con un po' di fatica, ma mi piacerebbe trovare un terreno comune di comunicazione per capirsi subito con gli ascoltatori, è che anche chi ha la fortuna di continuare a lavorare, sia in casa che fuori, e poi lì, anche lì poi dipende, insomma in gran parte in casa, qualcuno fuori, ma è che proprio il nostro tempo libero si è trasferito, quello sì, dentro la casa, quindi lo dobbiamo impiegare in modi creativi, insomma. Aspetta Emilio, che stanno arrivando un sacco di messaggi su come i nostri ascoltatori stanno ascoltando la radio. Allora, dalla Radio Apile, numero uno, Radio Apile, mi piace tantissimo. bellissimo, dal motorhome in cui vivo parcheggiato ai margini dell'orto che stiamo piantando. Cosa state piantando? Sono curiosa. Da impianto tradizionale piuttosto potente, vecchia FM, ma se mi perdo qualcosa attacco il Mac allo stereo e vado via internet, giustamente. Sul terrazzo da una radio tradizionale prendendo il sole, not bad. Dal telefono per radio internet. Beh, stanno arrivando con una radio del 1960. Il tempo passa, ma la radio è un mezzo di comunicazione immortale. Agente di commercio dall'autoradio alla radio del PC, sempre Radio 24. Esattamente questo, cioè si è spostato fisicamente l'ascolto della radio, ma noi ci siamo. E mi piace questo messaggio carino che ha scritto un ascoltatore e ascoltatrice: grazie per rendere i sabati normali. Ecco, noi vogliamo proprio, bello, ecco, non fingere, cioè, allora, noi rimaniamo normali, è una situazione straordinaria. Ci adattiamo. Io ho sempre il mio ideale di vita, sai qual è, Emilio? Quello del barbapapà. Dimmi. Te le ricordi, barbapapà? Come no, certo, ecco, assolutamente, che sì. Assumevano la forma del... Adesso io non lo so, perché adesso con la mascherina io guardo di là dal vetro ma non vedo le espressioni. Forse Andrea Roccabella è troppo giovane. Tu i barbapapà li hai visti? Sì, anche Edoardo Lavezzari, barbapapà. Sì, sì, da... No? Edoardo Lavezzari, dicono, no, di sì, ma secondo me, no, no, indaga. Andrea mi ha solo convinto. Gentili. Sì, sì, sì. Allora, dalle radio a pile situate in zone strategiche in casa mentre pulisco il terrazzo. Vi ascolto con Alexa. Giornata bellissima a Verona, sono sulla veranda, provincia di Catania, mentre zappetto il mio orto. Che meraviglia, che meraviglia. L'orto, ecco, vedi, posso dire l'orto, un filo di invidia. Quello mi viene, l'orto, è un po' sì. Non sei l'unica a provarla, però il bisogna potaccio, dire, lo dicevi, oh, tu bello. Prima. Sì, sì, la radio non invecchia mai, anzi rinasce sempre, questo voglio dire, fortuna tua che la fai un gran bene anche, però grazie. È bellissimo constatare veramente che questo mezzo, che insomma qualche anno sulle spalle ce l'ha, è sempre nuovo, si rinnova e questo è bellissimo, rimanendo comunque, come dire, un ottimo tramite di contenuti, poi sta a te, soprattutto sta a noi farli bene, questo vedremo. Vabbè, ci proviamo, vi ho ascoltato, esatto, per anni. Mentre andavo, esatto, al lavoro 160 km al giorno, beh, mi batti perché io pendolare, ma tu di più. Ora vi ascolto dalla radiolina di casa sulla poltrona a dondolo mentre lavoro a maglia. Mi raccomando, non saltare i punti, non ti distrarre. Da una transistor che tengo agganciata al vestito mentre pulisco il salone. Dal cellulare in giardino mentre vernicio le inferriate, Fabio. Ah, quello che zappettava l'orto. Patate, cipolle, già fatto zucchine, fagioli e aglio. Meraviglia. Allora, a proposito di normalità, c'è un appuntamento che questa settimana si è concluso. Ed è un segno forse di una volontà di tornare a qualcosa di più normale. Ecco qua, abbiamo un audio che abbiamo ascoltato tutti in questi giorni. I dati sanitari di oggi ci indicano ancora una volta che si è decisamente alleggerita la pressione sulle strutture ospedaliere. In questa fase dell'emergenza abbiamo deciso quindi di rimodulare le nostre conferenze stampa, continueremo a garantire il massimo della trasparenza sui dati e ogni giorno forniremo sul nostro sito e sui nostri social l'aggiornamento della situazione, mentre due volte la settimana, il lunedì e il giovedì, sempre alle ore 18, terremo questo punto stampa. Allora, abbiamo avuto, ne parlavamo la scorsa settimana, per settimane questo appuntamento delle 18 con la Protezione Civile, ora questo appuntamento diventa non più quotidiano ma bisettimanale. Emilio, cosa ne pensi? Secondo me è un segnale dal punto di vista della comunicazione molto importante. È un segnale deciso, anche perché, come stavi giustamente dicendo, è dal 22 febbraio che tutti i giorni avevamo appunto questo appuntamento fisso e onestamente drammatico, perché poi i numeri non erano certo quelli di un evento incoraggiante, e men che meno erano numeri leggeri. Sicuramente è un segno di comunicazione importante, ma anche, come tra l'altro Borelli ha sottolineato, il fatto che con tutta la fatica, con tutto il coraggio e con tutto l'impegno messo dagli operatori, diciamo che abbiamo tenuto botta, mettiamola così, non saprei definirla meglio, perché di botta, di impatto si è trattato, e questo secondo me è un dato estremamente importante. Speriamo che da due appuntamenti alla settimana diventeranno uno e poi magari spariranno. Questo credo sia la speranza un po' condivisa da tutti. Esatto, che si possono appunto sparire, essere sostituiti dall'analisi, da una spiegazione per capire cosa sta succedendo, cosa è successo, insomma è stato uno strumento utile, forse adesso bisogna fare un passo in più. Allora, una breve pausa perché siamo in ritardo, dobbiamo dare la linea alla viabilità, devo leggere il messaggio sacrosanto di un ascoltatore che mi striglia, dice: i commenti pesanti no, però per favore cerca di non dire che meraviglia ogni due parole. Allora facciamo così, io la prossima settimana porto un salvadanaio. Ogni volta che dico che meraviglia, quanto ci metto? No, non un euro è tanto, 50 centesimi va bene? No, un euro? Vabbè, un euro ogni volta che dico che meraviglia. Ma facciamo così, mi autotasso. Viabilità e poi siamo ancora insieme. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Radio Tube Social Network. E quanti messaggi. Sì, allora l'ho promesso, che meraviglia, un euro. Non questa settimana perché non ho il salvadanaio, cioè quindi la prossima settimana, se dico che meraviglia, un euro. Come state ascoltando la radio, ragazzi, è arrivato un WhatsApp che pensavo mi prendesse in giro, con internet alle Seychelles, invece cioè è davvero il prefisso delle Seychelles. Cioè, così non vale però. No, così non vale. Se mi scappa un che meraviglia è giustificato. E che invidia, cioè le Seychelles davvero. Beh ragazzi, hai capito. Poi la fortuna di essere pensionato in garage, in cortile, a occuparmi dei miei hobby, sempre la radio accesa su Radio 24. Se si potesse misurare il tempo che passo con la radio sintonizzata sulle vostre frequenze in metri, penso potrei dire di aver scalato parecchie montagne. Molto molto molto bene. E poi Manuel Italo Argentino, vi ascolto da Cordova. Sono molto triste per la situazione in Italia e vi auguro una pronta miglioramento, non lo so come si dice, però va bene, non so neanche come si dice in spagnolo. Un caro abbraccio per voi, muchas gracias, grazie Emanuele, davvero. Che bei messaggi, ovviamente i miei preferiti sono quelli dell'orto e anche dalle Seychelles. Giusto. Però ragazzi, c'è un messaggio molto interessante e effettivamente mi chiede poi a chi vanno gli euro che metto nel salvadanaio. Andrea Roccabella in regia ha alzato la mano. Si è offerto per la cifra del salvadanaio, quindi Emilio, stavi dicendo, ti ho interrotto. No, stavo dicendoti che tra l'altro proprio ieri, tu mi hai presentato come un appassionato di spazio, proprio ieri ricorreva un 50° anniversario che secondo me è simbolico, vorrei che lo fosse, mi piace pensare che lo sia. Ieri, 50 anni fa, cioè nell'aprile del 70, atterravano, dopo tutto quello che sappiamo essere successo in orbita, l'equipaggio Jim Lovell e i suoi due compagni dell'Apollo 13 tornavano a terra sani e salvi, ed è una sorta di disastro sfiorato che si è trasformato in quello che la NASA chiamava il fallimento di maggior successo. Io spero che sia una ricorrenza, come dire, che qualcosa ci dice, che un po' di coraggio riesca a darcelo, ecco, mi piace pensare così. Allora, a me non piace quando si dice la crisi che è opportunità, poi quella storia degli ideogrammi cinesi, che secondo me non è nemmeno vera, non lo so, non lo parlo il cinese, però è bella, cioè è bello questo esempio perché è una cosa reale, una missione spaziale votata al fallimento, che poi alla fine si è dimostrata qualcosa di se smetti di dire che meraviglia, poi mi ricominci a dire fantastico. E allora cosa dico? Sublime ragazzi. Sublime bello. Ragazzi, se posso sublime, io vado con sublime. Poi dai, al limite fai 30 centesimi con sublime, dai. No, dai, perché io adesso facciamo tornare di moda sublime. Cosa succederà questa notte? Dai un brevissimo audio in inglese per raccontare di quello che si è inventato una grandissima star della musica. We are now at $50 million and counting in contribution to the fund and to local community-focused charities. When we launched this with you all 12 days ago, the world was in a different place. And 12 days from now, the world will be different again. We hope for the better. Allora, lo hanno chiamato il Live Aid del 2020, è il grande concerto che Lady Gaga ha organizzato per l'OMS, andrà in onda anche in Italia questa notte su Rai 1 dalle 2 del mattino. Bravissima Lady Gaga, ha già raccolto un sacco di soldi, ha messo insieme Rolling Stones, Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, ci sono anche Zucchero e Andrea Bocelli. Posso dire, anche noi in Italia abbiamo fatto il nostro musica, adesso non mi ricordo come si chiamava, musica che unisce, ecco. Esatto. Dai, io propongo una moratoria sui commenti che confrontano le due manifestazioni. Dai, non si fa. Diciamo che questa notte sui social non voglio vedere qualcuno che dice: ah, loro sì, noi invece abbiamo fatto una. Io direi che no. Cosa ne pensi, Emilio? Hai ragione. Se non altro l'abbiamo fatto prima, dai. Consigliamoci con questo ragionamento. Ecco. Però è vero, però le iniziative tutte e due sono estremamente meritorie. E, insomma, i nomi coinvolti stanotte sono eccezionali, li hai appena elencati tu. E anche io, che come dire, non sono un grande fan di Lady Gaga, però non vedo l'ora, sinceramente, di ascoltarmi questo concerto da casa, perché poi sarà così, no? Sarà quello di questi esperimenti adesso ne vedremo tanti. Sì. Allora, abbiamo visto poi per settimane queste dirette Instagram di tutti i tipi, su tutti gli argomenti, di ogni personaggio. Secondo te è un fenomeno che scomparirà quando ricominceremo, chissà quando, a riutilizzare i mezzi tradizionali come facevamo prima, o è qualcosa che ci rimarrà? Non lo so, sinceramente non lo so. Quello che mi piace pensare anche che stiamo imparando a utilizzare dei mezzi che avevano già potenzialità ben chiare prima, che però forse venivano sfruttati per motivi diversi. Adesso stiamo abituandoci a comunicare, a sentirci in qualche modo vicini anche senza esserlo fisicamente. Io spero che questo rimanga. D'altra parte spero anche che, come dire, torneremo a berci un bicchiere di vino guardandoci negli occhi e magari anche abbracciarci. Questo lo spero io, come immagino lo sperano tutti quelli che sono a casa adesso, come noi, insomma. Non mi far fare commenti sull'abbracciarci. Abbracciarci and beyond. Chissà. Purtroppo sì. Chissà, prima o poi torneremo. Ma torneremo anche a fare quelle altre cose. Prima o poi torneremo, ad abbracciarci. Esatto. Detto questo, appunto, sarà un fenomeno, io credo, che ahimè, ai noi, ci accompagnerà ancora un po'. D'altra parte stiamo appunto imparando a usarlo in maniera diversa. Appunto, anche il concerto, l'iniziativa di Lady Gaga un po' conferma questa cosa, ma non è l'unica. Insomma, tu sei stata testimone in questi giorni anche di conferenze stampa piuttosto innovative. Infatti l'abbiamo menzionata prima, quella dei diavoli di Sky, conferenza stampa fatta su Zoom, ovviamente. Chiaro. Per cui, ecco, dobbiamo abituarci a interpretare i mezzi digitali, magari dando loro un ruolo che avevano, ma senza che fosse sfruttato fino in fondo, e che adesso invece, grazie al cielo, sta dimostrandosi molto utile. Spero, ecco, Marta, sinceramente, più di questo non mi spingo a dire. Allora, comunicare con i social, comunicare anche col telefono o con mezzi per mettersi in contatto con i propri beniamini. Sentite cosa è successo a Parma. Sì, salve, buongiorno, sono Matteo Scozzarella. Sì, io sono Crespo. Ah, un attimo, mi dica, è Faggiano al telefono, Faggiano. Faggiano, Faggiano? Sì, sì, sono io. Buonasera, signora. Buonasera. Sono Alessandro Lucarelli, piacere, dica. Ma sì che io ce l'ho dappertutto, è in casa. Ah, sì? Grazie a lei, Anna Maria. Tanti auguri a lei e alla sua famiglia. Un abbraccio. Che da meraviglia. Parte di tutto il Parma. I calciatori del Parma che hanno telefonato ai loro tifosi, ai loro fan, soprattutto quelli più anziani. Che bella cosa. Che meraviglia, lo dico. Che meraviglia. Bello. E saresti già 1,50 euro. 1,50 euro. Che meraviglia. Solo l'ultimo minuto. No. Sì. No. Però. No. Alla prossima settimana. La prossima settimana. Va bene, va bene. Come sei messo tu a calcio? Malissimo, sono sempre stato incapace, tanto che giocavo in porta, che è un po' il ruolo di quelli che non sono, che hanno i piedi veramente scarsi, e io ero tra quelli, però mi sono un po' rifatto con la pallacanestro. Peraltro ricorre anche una cosa curiosa in questi giorni, magari ne parliamo dopo, però a calcio ero veramente scarso. Ciò non toglie che questa iniziativa sia davvero, e ti cito, una meraviglia, veramente bellissima. Passiamo a un calcio un po' particolare, sentiamo qua. Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua ragazzi quindi con un nuovo episodio del Faccio le vostre squadre. Vi ricordo di lasciare almeno 2000 like per un nuovo episodio, di iscrivervi nei commenti la vostra squadra, che vi spiegherò breve come si fa a mandarmi il link. Vi ricordo quindi che dovete mandarmi il link di Foodbin della vostra squadra col budget e tutte le informazioni importanti. Oltre a ciò mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché è il miglior modo per supportare il mio lavoro. Se vi piacciono questi video, se vorreste apparire in questi video, e di attivare le notifiche attivando la campanellina. Questa, la prima ragazzi, è la squadra di Munir, a circa 400k di budget. In porta De Gea, Ake e Rudiger come difensori centrali, Wan-Bissaka e Robertson come terzini, Fred e De Bruyne che giocano a centrocampo, Aubameyang e Juan Jesus a completare la fase offensiva, con Sané e Salah in fascia. La panchina è composta da Berni, allora, Rossi, per me Maridini, tutti questi nomi sono abbastanza misteriosi, perché non sto seguendo tanto il calcio, mentre Edoardo Lavezzari mi dice, mi dà l'ok, sono tutti calciatori veri in carne e ossa. Ma cos'è un calcio mercato? Cioè, stiamo facendo delle squadre vere? Non lo so, lo chiediamo a Nicolò Mirra. Ciao Nicolò. Ciao ragazzi. Allora aspetta Nicola, a parte il fatto che sono pazza della tua R moscia, che mi davvero ti piace, ma tantissimo. Nicolò Insa Mirra, Insa per cosa sta? Insa sta per insane, perché quando giocavo a un altro videogioco che si chiama Gears of War, che è uno sparatutto, quelli dove si spara in sostanza, il mio modo di giocare era folle, cioè, le scelte che poi intraprendevo. Dato che giocavo spesso con giocatori esteri, mi chiamavano Insane, da lì è diventato Insa. Allora, hai detto infatti altro videogioco, perché noi stiamo parlando di calcio, di campionati veri, di giocatori veri, di squadre vere, ma come si gioca, Nicolò? Allora, noi giochiamo alla console, che sia Xbox o PlayStation, che sono le due console competitive per le competizioni di FIFA. Dopodiché ci sono questi tornei, questi eventi che si giocano, giocati o virtualmente, online, in particolare in questo periodo, e poi ci sono delle fasi dal vivo che torneranno sicuramente non appena le cose torneranno normali. E si gioca su Ultimate Team, che è una modalità dove tu costruisci in sostanza la squadra dei tuoi sogni, o la squadra più forte che ti puoi permettere. Emilio, è un fenomeno vero quello degli esports? Non sono ragazzini che giocano tra di loro e si divertono. Anzi, in questo periodo in cui il calcio, quello che si corre sull'erba, non c'è, è un fenomeno ancora più evidente. Dici benissimo, in generale i videogiochi in questo periodo, tra l'altro l'OMS proprio un paio di settimane fa suggeriva di giocare online, perché il videogioco appunto consente ovviamente di mantenere la distanza sociale, ma contemporaneamente di collaborare in una partita insieme, eccetera eccetera. FIFA anche lo dimostra, in questo momento i videogiochi stanno facendo ancora più accoliti, ancora più giocatori online, e FIFA, nella fattispecie, poi ne abbiamo un interprete tra i migliori in Italia e forse non solo. dà la possibilità a giocatori professionisti di fare delle partite e delle cose che io dal vivo sono, come dicevo prima, incapace, ma anche sul videogioco di fare quello che loro fanno abitualmente, ecco, non me lo sogno e basta. Per cui, e ci vuole del talento, talento puro. Poi diciamolo, sono anche tornei che mettono in palio cifre sostanziose, per cui hai voglia a definirli virtuali. Sono virtuali solo, come dire, nell'emissione, ma poi le conseguenze e soprattutto la qualità dei giocatori è reale. E come? Facciamo una brevissima pausa, poi saremo ancora con Emilio Cozzi e con Nicolò Insa Mirra, anche perché voglio saperne di più di questo che è un vero e proprio lavoro e come si diventa campioni di eSports. Tra pochissimo. Radio Tube Social Network. Mentre svuoto la lavastoviglie e preparo il tavolo da ping pong per giocare in famiglia, ci scrive Claudio. Poi un ascoltatore che non scrive il suo nome, ma lo saluto con affetto. Sono brasiliano, ascoltare Radio 24 mi sta aiutando a imparare l'italiano, la sento ogni giorno. Muito bem, che bello, grazie, obrigada. E poi ancora, ma quanti messaggi, perché stiamo parlando di questi messaggi di come ascoltate Radio 24? Dal giardino con tanto di foto, e che bel giardino, grazie, perché questa settimana c'è stato questo studio che dice si ascolta meno l'autoradio perché si va meno al lavoro per ora, ma si ascolta di più la radio a casa con tanti mezzi, e quindi ho un po' curiosato. C'era Alessandro Schirano che scriveva: io lo sto ascoltando dall'app del cellulare mentre gioco a FIFA. Perché il nostro redattore, che in questo momento sta lavorando da casa, ovvio che eri in tema. Nicolò Mirra, super campione di sports, se Alessandro Schirano, che guai a lui perché comunque deve lavorare a RadioTube, ma volesse diventare un campione di eSports, come si fa? Cioè, ci vuole il talento naturale, bisogna allenarsi molto. Com'è la strada per diventare un campione di eSports? Allora, diciamo che non esiste una strada perfetta, precisa, uguale per tutti quanti, perché comunque dipende innanzitutto, come hai detto te giustamente, se c'è del talento. Però non voglio sminuire il fatto che se non ci sia del talento non è impossibile comunque farcela ad arrivarci, perché all'atto pratico anche nel calcio magari ci sono i giocatori più talentuosi, ci sono i giocatori meno talentuosi che ci arrivano col lavoro. Poi ovviamente non puoi diventare Lionel Messi o Cristiano Ronaldo degli eSports senza avere del talento, però comunque puoi riuscire ad arrivare a renderlo un lavoro. Sicuramente l'hard working è molto importante, quindi questo significa allenarsi, significa ogni giorno dedicare un sufficiente numero di ore al giorno nel gameplay per capire come funziona. E esiste una cosa che si chiama meta, che spiego brevemente, semplicemente quella serie di cose che funzionano all'interno di una partita o all'interno di un videogioco, come se fossero delle mosse a scacchi che tu devi fare per vincere, per intenderci. Cioè, tipo, per tirare non è che posso tirare in tutti i modi, devo tirare magari su un palo specifico o con un certo numero di potenza. Quindi la conoscenza del gioco, studiare quindi il la gioco, conoscenza del calcio, ma anche la conoscenza di come il calcio funziona sul videogioco. Il calcio fino a un certo punto, perché puoi giocare a calcio fino a una certa parte del campo, poi da lì in poi devi giocare a scacchi, in pratica devi sapere quello che devi fare e ricreare le situazioni che funzionano. Ok, altra domanda, Nicolò, perché io voglio conoscere questo mondo. I campioni di sports sono legati anche a squadre tradizionali, ad esempio tu lavori con l'Inter. Sì, esatto, io adesso lavoro con Inter, sono per loro il frontman, l'influencer, perché io poi sono pro gamer di Clash, del team appunto che collabora con Inter. Cos'è Clash? Però, perdonami, esatto. Nicolò, perché ti faccio fare delle spiegazioni, lo so che ti sembrerò, però è proprio un mondo che, Emilio, perdonami anche tu, un mondo che non conosco. Cos'è Clash? Ci mancherebbe. E Emilio giustamente ride, ma cos'è? Tanto ciao Emi, non ti ho ancora salutato. E ciao, per quanto riguarda ciao, Clash, è un po' come se fossero il club di calcio negli eSports, solo che la differenza importante è che non è un club che si occupa di solo il calcio, ma è un po' come le polisportive che hanno varie discipline all'interno, quindi le discipline sono i videogiochi competitivi. Quindi immagina in questo modo, il paragone è quello. quella differenza importante però che siamo già tutti, cioè i team importanti, siamo già tutti strutturati per essere anche molto media company, lavorare sul marketing, sulla produzione quindi contenuti, lavorare con gli sponsor e così via, esattamente come succede nel calcio, con però più prospettive legate ai social, più prospettive legate alle cose che possiamo fare online, oltre che degli eventi dal vivo, perché se ne fanno tantissimi. Però diciamo che generalmente io sì, sono con Inter e sono con Clash. Lato Inter non sono il loro pro, un po' perché comunque questa stagione c'era la Serie A e la Serie A sarà solo su PlayStation, mentre io gioco Xbox, quindi non avevo modo di competere, se non competendo su altra console, ma lì mi mancherebbe la squadra. E prima invece, per dire, giocavo per la Roma, che era la stessa cosa di Inter, di Interclash, ai tempi era Roma Fanatic. Allora, questo ragazzo, che è un ragazzino, è stato nominato tra i 100 migliori under 30 di Forbes, tanto per farvi capire che quando magari i vostri figli stanno perdendo tempo sui videogiochi, non si sa mai, possono diventare dei supercampioni, Emilio. Non è male come prospettiva. Brava. È così. Adesso c'è da fare un distinguo, perché giustamente poi Nicolò è particolarmente modesto. E allora, diciamo che nell'e-sport, come giustamente dicevi anche tu adesso, c'è la possibilità per chiunque di primeggiare. Questo è uno dei lati più belli delle discipline sportive elettroniche. Anche chi magari nella realtà avrebbe dei problemi a competere, o magari fosse impossibilitato a competere fisicamente, nell'e-sport avrebbe le stesse chance di chiunque altro. Detto questo, c'è anche il rovescio della medaglia, perché la concorrenza è spietata, per cui per arrivare ai livelli di Nicolò o di altri giocatori professionisti comunque occorre tantissima dedizione e certamente anche un po' di talento. Però quello che dici tu è verissimo, adesso la prospettiva di vedere il proprio figlio perdere un sacco di tempo davanti ai videogiochi non è necessariamente tale, può essere anche invece un investimento. Ripeto, occorre misura e occorre talento, bisogna essere chiari su questo punto. Nicolò, certo, prima di salutarti ti chiedo se i tuoi genitori ti hanno mai sgridato perché giocavi troppo con i videogiochi? No, perché bene o male sono sempre stato uno molto attento a dare i giusti tempi ad ogni cosa, quindi quando era un hobby per me e non andavo oltre un certo numero di ore, che era magari un'ora e mezza, massimo due, ogni sera dopo che avevo fatto scuola, calcio e uscivo con i miei amici ogni weekend come ogni ragazzino dell'età che avevo ai tempi. Poi col tempo, ovviamente, quando ho cominciato a crederci di più dopo gli infortuni al calcio e così via, ho pian pianino investito più tempo, poi man mano che diventava un lavoro, allora lì aumentava di conseguenza. Però diciamo che secondo me, come diceva giustamente Emilio, bisogna aver misura e quindi stare attenti a dedicare il giusto tempo alle cose. Però è anche vero che se vuoi arrivare a questi livelli devi anche prenderti dei rischi, come lo fai nel calcio, perché se vuoi arrivare a diventare un pro del calcio non ti bastano le due ore che fanno ai provinciali, cioè devi allenarti anche fuori, ed è la stessa identica cosa. Quindi bisogna avere attenzione e capire esattamente dove e come ci vuoi arrivare, con che tempi, e poi dedicare il giusto tempo alle cose senza dimenticare le priorità. Non è un caso che hai un sacco di fan. Quando ci saranno dei campionati competitivi agonistici di Candy Crush, io proprio ammazzo tutti, perché sono a livello 6295, quindi attenti che io divento una campionessa per la prima volta nella mia vita in qualche sport, ma solo se diventa agonistico quello. Grazie a Nicolò Inza, grazie a Mirra, un abbraccio, ciao Nicolò, grazie ciao. Per queste spiegazioni, perché io totalmente digiuna, nonostante il nostro Emilio Cozzi ogni tanto ci spieghi qualcosa. È un mondo che affascina tantissimi ragazzini, e poi in questo periodo in cui non c'è lo sport giocato, in tanti si sono appassionati, sono andati a vedere in rete questi campionati virtuali. Vero, tra l'altro anche super campioni nella realtà e in questo momento impossibilitati agli allenamenti si sono cimentati col videogioco. Faccio un nome su tutti: qualche giorno fa Charles Leclerc, cioè il giovane pilota prodigio di Ferrari, ha corso in Cina una gara digitale, tra l'altro ha vinto, ma ha detto che ha dovuto impegnarsi tantissimo, quindi sì, in questo momento davvero il videogioco consente un'evasione e in realtà anche una collaborazione altrimenti impossibili, sinceramente. Oh, salve, sono in Ecuador, sento la radio online tutti i giorni, sono aggiornato sull'economia, cinema, sport, anche le cose della zanzara. Ci porti la zanzara in Ecuador, la zanzara in Ecuador. Oh, grazie per esistere, ho la mia famiglia a Roma. Allora, un abbraccio fino in Ecuador, soprattutto perché la tua foto di WhatsApp è il disegno del cane Matli, del quale io sono pazza, quindi un saluto fino in Ecuador. Emilio, ti faccio sentire un pezzettino di musica di un trailer e mi devi raccontare di che documentario stiamo parlando. Ecco qua. Allora, non dirò che meraviglia, dirò spaziale. I miei amici, ho degli amici che ancora mi prendono in giro perché la prima volta che io ho visto quest'uomo di persona, non mi sto riferendo per una volta a Emilio, mi sto riferendo al protagonista di questo documentario, io ero talmente ipnotizzata dalla sua bellezza che mi hanno preso in giro per settimane, per mesi, perché lui si presentò in conferenza stampa, nella sala stampa del Festival di Sanremo, con la tuta spaziale. Ragazzi, un fisico straordinario, perché diciamo un bono pazzesco. Io che non ho mai avuto il fascino della divisa, ma uno che arriva con la tuta spaziale, io cosa devo dire? È una divisa diversa. Che è una roba, che è una roba, che è una roba. Di chi stiamo parlando, Emilio? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del colonnello, nonché comandante, primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, Luca Parmitano, e questo è Starman, è il documentario che uscirà il 1° di maggio, uno dei due documentari dedicati a Luca Parmitano, adesso entriamo in dettaglio, che racconterà in questo caso la preparazione dell'ultima sua missione, la missione Beyond, che si è appena conclusa, e anche altre cose che a questo punto potrebbero interessarti molto, perché per esempio, cosa poco nota, Luca Parmitano è anche un campione di Ironman, una disciplina fisica... Cosa manca quell'uomo lì, dico io. Esatto, solo lui può interpretare come fa, perché davvero sembra Big Jim. Io ho avuto modo di vederlo anche allenarsi. Fa abbastanza spavento, insomma. Io lo so che può sembrare irriverente dire del colonnello, che è un gran bo, però è pazzesco, cioè è surreale, è una roba. Poi con la divisa dell'astronauta, non lo so. Insomma, quando arrivano questi documentari, perché me lo devo segnare? Perché io da allora, fan il primo documentario, quello cui si riferiva il trailer, si intitola appunto Starman, l'ha diretto Gianluca Cirasola e racconta la preparazione della missione e appunto dei retroscena molto gustosi, anche spesso intimi, cioè la vita familiare di Luca, cosa di cui lui è estremamente geloso e riservato, però lì è con un'onestà veramente struggente. Poi c'è un altro documentario che arriverà. Non è secondaria la dimensione della vita familiare di un uomo che se ne sta sullo spazio, non per qualche giorno, ma per molti mesi. Ecco, scherzi a parte. Molti mesi, e che peraltro per andare sullo spazio implica anche un impegno che dura anni prima, perché andare sullo spazio in questo momento è la cosa come dire più eccellente dell'uomo, ma anche più difficoltosa e per certi versi molto pericolosa. Quindi un astronauta per arrivare là ha fatto veramente un addestramento, ha subito un addestramento rigorosissimo che richiede il massimo della concentrazione per un lungo periodo. Il secondo invece documentario, che si intitolerà 2020 Space Beyond, Beyond come la missione, uscirà a fine anno. Mi piace pensare che sia, come dire, sancisca la fine di questo 2020 in un modo bello, però racconterà invece proprio la missione Beyond, che appunto ha appena concluso Luca Parmitano e che l'ha visto prima volta nella storia per un italiano diventare comandante della ISS, che non è esattamente un ruolo facile da mantenere perché implica il fatto di poter fare migliorare gli altri. Questa è un'ossessione di Luca alla quale lui come sempre risponde al massimo. Lo testimonio perché ho vissuto tutti i documentari e ho conosciuto Luca da vicino, sono d'accordo con te, è buono, però a me interessavano altri aspetti. Vabbè, sono gusti. Un'ascoltatrice infatti in questo momento scrive: ciao Marta, anch'io sono pazza di Luca Parmitano, tre emoji con gli occhi a cuore, vi ascolto dallo smartphone con le cuffie mentre faccio pulizie, grazie per la compagnia. Vabbè, buon gustai anche tu, pausa e ci ritroviamo dopo la viabilità. Radio Tube Social Network. già lo so che non ho una bella cera. Sono andato a dormire alle 4 ieri sera. Poi la sveglia puntuale mi ha urlato cose astruse. Io l'ho spenta perché il cervello non traduceva. Ho provato in più modi a allentare la tensione. È da un po' che mi sento strano e stralunato. Freddo, caldo, non so, qua è sempre metà stagione. E poi sono nervoso e mangio disordinato. Ma affronto tutto con stile. Sembro un perfetto lord inglese, anche se il mese deve ancora finire. Se non invito gente a casa, non è perché sono ostile. Ma tra i vestiti, il cane, il papi del trasloco, c'è la guerra civile. Allora potete scegliere tra sublime, delizioso, me l'ha appena scritto mia cugina, delizioso e fantasmagorico. Non accetto aggettivi meno di questi per Gemon, al quale voglio molto bene, anche perché è un grande ascoltatore di Radio 24. Porta un portafoglio gonfio settimana prossima, no, Marta, te lo consiglio già adesso. L'euro ti conviene è solo carica. Per meraviglia. E già ci sono due ascoltatori, Gianni via SMS e un ascoltatore che non si è firmato su WhatsApp, che hanno proposto di indennizzarmi poi degli euro che metto. Quindi ragazzi, siamo già a posto. Perché parlo di Gemon? Non solo perché spero di averlo ospite la prossima settimana a RadioTube. È un grande ascoltatore di Radio 24 e per questo è già super. Però perché ha avuto, secondo me, un'idea veramente tenera. In questo periodo, e ne abbiamo parlato prima anche con Nick, col quale abbiamo fatto dei discorsi proprio anche sul mondo della musica in questo periodo. Tanti hanno spostato le uscite dei dischi perché è impossibile fare promozione, perché comprare il supporto fisico si può fare ma solo nei negozi virtuali. Quindi è un periodo talmente difficile che in tanti hanno spostato i loro dischi. Gemon alla fine ha deciso di uscire con l'album il 24 aprile e cosa si è inventato? Secondo me una cosa molto molto molto carina. Questo è il suo tweet. Il 24 esce il mio disco. Non posso incontrare i fan ai firmacopie? Mi sono organizzato. Chi ha già acquistato o acquisterà CD o vinile prima dell'uscita riceverà anche un link per videochiamata con me. In store digitale ma col selfie e tutto. La trovo una bella idea perché i fan ormai erano abituati con gli in store ad avere anche un contatto col proprio beniamino, anche solo senza andare a scomodare il fanatismo. La bellezza di incontrare una persona che fa una musica che ti piace. Questa cosa della videochiamata per chi compra il disco la trovo, mi dicono, sublime. È sublime. Meravigliosa, ti direi. È quasi meravigliosa. No, allora, comunque, no, a parte no. Le battute, è come dici tu. Tra l'altro, prima parlavamo dell'utilizzo delle piattaforme digitali, come dire, imposto dalla quarantena in cui siamo tutti. Ecco, questo secondo me è uno dei più belli, una delle idee più belle, perché dà contatto col tuo idolo, col tuo artista preferito, o con quello che stimi, se non altro, ti dà un contatto diretto in un momento in cui veramente sarebbe quasi impossibile pensarlo. Per cui davvero Gemon ha avuto, secondo me, un'idea eccezionale e è molto bella, mi piace che il 24 inizi con questa cosa. Mi piace anche eccezionale. Allora, abbiamo parlato prima e più volte questo pomeriggio di Diavoli, che è questa serie di Sky che è iniziata ieri, che poi si trova anche sull'on demand, eccetera, eccetera, eccetera, con Patrick Dempsey, quello di Grey's Anatomy, altro brutto, e un altro brutto che è Alessandro Borghi. Hanno fatto questa conferenza stampa di cui parlavamo poco fa via Zoom, quindi giornalisti in videoconferenza, stare in videoconferenza con l'amico Omar Schillaci in studio da solo a Sky, pieno di schermi attorno a lui, è stato bravissimo, perché era una cosa da giocoliere. Ma la cosa originale è che Sky si è inventata anche una sorta di promozione incrociata su YouTube con una squadra di star di YouTube che io adoro, che sono i The Jackal. Che cosa hanno fatto? Hanno guardato i Diavoli insieme ad Alessandro Borghi commentandolo in videoconferenza. Ecco qua un pezzettino molto carino. Allora, la serie, diciamo che da un punto di vista mediatico la stanno promuovendo come tipo, ok, Borghi è figo, però Dempsey di più. C'è anche tutto un viaggio all'interno della finanza, che era una roba che io non conoscevo assolutamente e immagino neanche voi. Ma allora, guarda, in realtà lo dico molto sinceramente, c'è stato un momento dove avevo delle scene a petto nudo e mi sono allenato, poi da metà serie in poi ho mangiato come una cosa inguardabile. Bravo, è come quando facevi i compiti il giorno prima per il giorno dopo. Esatto. Cerco mia moglie. Comunque ho capito che Diavoli è una serie in cui sono tutti un po' preoccupati. Devo trovarla. Allora, questa cosa fa molto ridere, perché l'entrata di questa scena, come avete potuto vedere, era a Londra, e invece questo qui è un locale che sta a via Tiburtina. Beh, che dire, la scena che inizia a Londra e poi svelano che l'interno è girato sulla Tiburtina, notevole. È il cinema. Esatto. Difficile adesso la creatività per gli youtuber, perché cosa fai? Devono, l'abbiamo detto già molte volte in queste settimane, devono inventarsi delle cose girate a distanza, in videoconferenza. A me stanno divertendo moltissimo, loro sono molto bravi, le coliche, che sì, stanno facendo sì. Il gioco nomi, cose, città. C'è qualche parola cina, lo dico anche per l'ascoltatore brasiliano che mi ha scritto, che si chiama Gustavo, ascolta La Zanzara, Radio Tube e Smart City. Gustavo, c'è qualche parolaccia, se la vuoi imparare bene, se no non, meglio di no forse. Sentiamo, allora, le coliche. Quindi lettera? Dai, lettera C. Dai, nomi? Sì, sì, risolto, mi vedete bene adesso? Mi sa che ha un piccolo ritardo, leggerissimo. Mi sa più di uno, là. Starà usando Internet Explorer. Io comunque ho messo Cinzia, nome di donna. Ve le ricordate le donne? Conte. Dove? C'è una diretta, un discorso, un nuovo decreto. Okay, calmo, ha messo nome Conte, tutto nella norma, come al solito non capisce un cazzo. Maronna Andrea, mi hai fatto fu gialla. Comunque Conte non va bene perché non è un nome, ovviamente. Ah no? E avanti, dimmi, come si chiamava Ugolino di nome? Che ci azzecca, quella è una carica nobiliare. Ancora con le cariche nobiliari, fra? 2020? Dai, Fabrizio, tu che hai messo? No, no, Chrome, sto usando Chrome, non Internet Explorer. Bello Chrome, nome straniero, 20 punti. Yamannanza, animali. Io ho messo canguro. Cuculo. Sì, tetette, papalle e cacazzo. Tu sei un uco coglione, sì. Scusate, è volgarissima. Ma io da stamattina però... che l'ho ascoltata e rido. Sì, lo so, io vi ho avvertito, vi ho avvertito che c'erano le parolaccette. Però... Vabbè, ma per un ascoltatore della Zanzara, insomma, questa è acqua fresca. No, diciamo, infatti, dai, va bene, però va bene. Io mi preoccupo per Gustavo, che dopo non è che può dire... Cioè, poi quando viene in Italia, Gustavo, che ha imparato l'italiano ascoltando anche la Zanzara, non è che poi si possa dire tutto, però dai, i nostri ascoltatori sono straordinari. Vero. Da questa parte e dall'altra del mondo. Sono... imperdibili e imprendibili. Emilio, allora, sì. Difficile per questi youtuber sfrenare la creatività. Io infatti tutte le settimane con il nostro Alessandro Schirano guardiamo un po' le tendenze di YouTube. C'era poco sta settimana, c'era poco di interessante, perché abbiamo tutti grattato il fondo delle delle idee in videoconferenza. Certo, certo. Detto questo, guarda, io sono un grande fan. Secondo me, adesso dico una cosa pericolosissima da dire, non vorrei essere frainteso, anzi, i vincoli tirano fuori sempre meglio dai grandi artisti. Te la dico così. Penso a Michelangelo anche, capito? Per cui confido che youtuber bravi anche in questa situazione drammatica tirino fuori cose clamorose. E qualcuna l'hai fatta ascoltare oggi, dai. Questa è eccezionale, sì, sinceramente. Questa è una meraviglia, questa è una meraviglia. Infatti, io stessa, da artista... Quanti aggettivi vedi? Ho tirato fuori per vedi? Non dire che meraviglia. Vedi che funziona. Ho proprio un devoto Oli dentro di me oggi. Tutto un dizionario inghiottito per non dire che meraviglia. È stata una bellissima puntata. Per me ma soprattutto perché i messaggi degli ascoltatori sono stati veramente fortissimi. Grazie a chi è sul balcone, nell'orto, a fare le pulizie. Grazie a tutti, basta che ascoltiate la radio in qualsiasi momento, in qualsiasi modo, con qualsiasi mezzo. Devo fare dei ringraziamenti per chi ha lavorato con me questa settimana: Andrea Roccabelli in regia, in redazione qui Edoardo Lavezzari, Alessandro Schirano che... basta FIFA, devi lavorare, basta FIFA. Grazie a Emilio Cozzi per essere stato con noi. Emilio, la prossima volta in studio, così ci abbracciamo davvero. E ci abbracciamo. Grazie a voi, Marta, grazie. Grazie a tutti, ci ritroviamo il prossimo sabato ancora con RadioTube.